Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è I primi giorni e i giorni prima. Questa è la settimana dei primi giorni di scuola e tra amiche e amici con figli ai vari gradi di scuola dell'obbligo e non e qualche scrollata veloce sui social, mi sono accorta anche io che la scuola è iniziata. Così ho pensato ai miei primi giorni. Ho scoperto che l'unico primo giorno di scuola che mi ricordo è quello della prima elementare. Ciao Chiara, che abbiamo diviso banco e affetto da quel giorno in avanti. Invece di tutti gli altri primi giorni di scuola, non ho memorie molto precise. Però mi ricordo il mio primo giorno nell'appartamento in condivisione quando sono uscita da casa dei miei genitori e anche il primo giorno di quando sono andata a vivere da sola. Mi ricordo perfettamente il primo giorno del mio primo viaggio in solitaria. È indelebile la memoria della prima lezione di yoga che ho seguito e della prima che ho insegnato, il primo giorno di università e il primo giorno del corso quadriennale insegnanti yoga. Potrei continuare fino a Natale a elencare i primi giorni. Sono moltissimi, tanti più di quel che si crederebbe. E a te? Quali sono i primi giorni che ti vengono in mente adesso? È quasi incredibile far caso quante volte abbiamo iniziato, vero? E quella sensazione del momento prima della partenza, prima del parto, prima della campanella, prima del treno, prima della cerimonia, prima della sentenza, prima del trasloco, prima del contratto, prima del bacio. Ecco, quella sensazione. Il primo giorno di un cambiamento, il giorno prima del cambiamento. Il primo giorno della settimana è lunedì, visto così potrebbe già essersi scrollato di dosso l'alone di pesantezza di cui lo rivestiamo ed essere ciò che è, una partenza. Se poi vuoi che trasformiamo insieme il giorno più odiato della settimana in un nuovo, potente inizio, unisciti al gruppo di Yoga del Potere Prendersi il lunedì, online appunto ogni lunedì dalle 19:30 alle 21. Scrivimi. Insegni yoga? Se vuoi trovare il tuo approccio autentico, l'unicità che ti distingue, al di là delle tecniche che hai imparato al teacher training, quelle ovviamente restano, contattami per un percorso individuale insieme. Insegnare senza essere la copia della copia della copia di qualcun altro, per quanto rassicurante possa essere per te, è sostenere le persone che ti hanno scelta o scelto a vivere meglio. Il risultato è che si scopre di essere più felici, loro e tu. Scrivimi per fissare una telefonata esplorativa. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Mariangela Gualtieri dalla raccolta Quando non morivo. Sarà il bello di cominciare con tutta l'energia rappresa ancora intatta in gocce, tutta sospesa sopra il fare nostro. E a proposito del prima di, hai curiosità, hai fiducia per iscriverti a un percorso yoga online guidata da me, senza averne ancora la descrizione specifica nel link sul sito? In posizione strategica, 4 incontri yoga online per abbracciare la postura, martedì 4, 11, 18 e 25 ottobre, dalle 19:30 alle 21. Ecco, allora, per ringraziarti della tua curiosità e della tua fiducia, il contributo di partecipazione per te sarà di 50 euro se ti iscrivi entro lunedì 19 settembre, attenzione, lunedì prossimo, che è il giorno in cui aggiornerò il sito con la descrizione specifica. Per le iscrizioni successive a lunedì 19 settembre, il contributo sarà di 80 euro. Un abbraccio grandissimo che ti solleva per un istante da tutti i prima e tutti i dopo. Proprio qui, proprio adesso. Laura.